sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I miei ricordi più belli sono legati al pacco che arrivava a Natale dalla Germania, i dolci particolari e sconosciuti in Italia, e il profumo del Natale e della Germania di Johannes. Sono Anna, vivo a Settimo Torinese, sono sposata, ho una figlia e la passione per i viaggi e le storie. In Australia scopro che Maria è in possesso di una lettera che porta la data 1946. L'autore si chiama Renzo Biondi, prigioniero poco più che ventenne catturato a Tobruk in Libia, proprio dalle truppe australiane e portato lì in Australia. In quella lettera Renzo annuncia alla famiglia il proprio ritorno a casa. La lettera però evidentemente non è mai partita, perché c'è la Maria, con tanto di busta. Leggo l'indirizzo e scopro che la famiglia Biondi abita a Tavernelle Val di Pesa, nelle colline del Chianti. Io nel Chianti ci abito e vivo a 5 minuti di macchina da Tavernelle. Fotocopio la lettera e una volta tornato mi metto in testa di cercare la famiglia Biondi. Scopro che non stanno più a Tavernelle. Faccio un po' di indagini e realizzo che da moltissimi anni sono a Firenze. Non mi perdo d'animo, anche perché trovo sull'elenco telefonico di Firenze un'utenza intestata proprio a Renzo Biondi. Era una sera di febbraio del 2007, verso le 9. Telefono. Due squilli. Mi risponde la voce di un uomo. Pronto. Dalla voce sembra un po' avanti con gli anni. Mi presento, poi chiedo se lui è il Renzo Biondi che è stato per tutti quegli anni prigioniero in Australia. Sì, mi risponde. A me salgono i brividi lungo la schiena. Faccio un respiro e poi gli dico: ecco, io avrei una lettera che lei ha scritto 60 anni fa mentre era prigioniero. Se le fa piacere, posso venire a portargliela. Un attimo di silenzio dall'altra parte. Poi sento la voce di Renzo rotta dall'emozione. Quasi non riesce a parlare. Io allora racconto i particolari del viaggio e di come sono in possesso di quella lettera. Buongiorno a tutti, è un bel 31 di dicembre, è l'ultimo giorno dell'anno e io ho aperto leggendovi una storia di un anno fa. È una storia che chi conosce questo programma probabilmente si ricorda, l'abbiamo anche raccontata al live non di questo giugno del 2014 ma dello scorso. Si chiamava La lettera mai spedita, ce l'aveva mandata Stefano ed è una storia incredibile che parla di questo signore toscano che durante la guerra viene fatto prigioniero, portato in Australia, là scrive una lettera, la lettera rimane là, non si capisce perché. Non viene spedita e lui la trova perché va in Australia a fare delle ricerche e decide di trovare quel Renzo Biondi e lo trova 60 anni dopo e questa era la storia del loro incontro. Ve l'ho letta perché non semplicemente perché siamo in vena di malinconia ma semplicemente perché tutte queste storie sono raccolte negli ebook di Voi Siete Qui che di solito questo periodo, il periodo delle vacanze natalizie, è un bel periodo per potersi scaricare e leggere. Sono gratuiti, li trovate sul nostro sito ovviamente radio24.it, alla nostra pagina Voi Siete Qui, trovate tutto quello che riguarda le puntate che mandiamo in onda, trovate ovviamente la storia di oggi, la storia di Anna, trovate la sua foto e trovate sulla parte di sinistra i link per scaricarvi gli ebook. Sono già stati molto molto scaricati, io vi chiedo di continuare a farlo, mica per altro perché sono una figata. Mi sembra così, mi sembrava un bel modo per dire che erano dei bei libri. 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui Radio 24 è il nostro profilo Facebook, Voi Siete Qui R24 è il profilo Twitter. Un po' forse l'avete già intuito da quello che racconta Anna nell'intro della puntata di oggi. Parla di un'amicizia ed è per questo che vi ho raccontato un pezzo di storia che arriva dalla guerra, da un uomo che era prigioniero. Anche qui si parla di prigionieri ma non si parla di lettere non spedite, si parla di un uomo che ne salva un altro e da lì nasce un'amicizia incredibile che va avanti negli anni, ancora oggi, tra i propri familiari. Quindi si parla di italiani e di tedeschi, ma non è una barzelletta. 349-238-6666, parliamo del tedesco a cui siete affezionati. Detto così fa ridere, però è il vostro tedesco preferito. Salvo, ad esempio, mi scrive: il mio tedesco preferito è sempre stato Karl-Heinz Rummenigge. Anch'io mangio il formaggino d'oro Grunland, ovviamente, ce lo ricordiamo così. Antonia, adesso è al Bayern Monaco, Rummenigge comunque un signore con una sua autorità e autorevolezza. Antonia, il tedesco a cui sono più affezionato è un signore che abitava a due passi da mia zia, aveva un roseto splendido, si era sposato con una donna italiana e ogni volta che poteva mi regalava una rosa. 349-238-6666, mettetevi comodi, questa è la storia di Anna. Frequentavo la seconda elementare. Siamo nei primi anni 60. La seconda guerra mondiale era finita da non molti anni. La mia maestra, citando episodi di storia vissuta, parlava male, in modo generico e ovviamente per luoghi comuni, del popolo tedesco. Questo mi creava disagio e disappunto. Non lo potevo accettare. Io sapevo perché non lo potevo accettare. Mio padre, Sandro, classe 1921, alpino della Brigata Giulia, non amava parlare della sua prigionia in terra tedesca. Lui parlava solo del suo amico tedesco, Johannes. Mio papà era una persona molto determinata, anche molto severa nei nostri confronti, però una persona allegra, con sempre un grande spirito del vedere le cose positive e soprattutto una persona che sapeva mantenere viva le amicizie e i valori che per lui erano contati tantissimo. Johannes apparteneva ad una famiglia tedesca. Viveva nel nord della Germania, nella città di Buer, nella zona della Ruhr. In quella città, come in molte altre, era stato allestito un campo di lavoro per i prigionieri italiani e russi. E proprio lì, in quel campo di lavoro, nel pieno della follia della guerra, la vita di due persone, tanto diverse tra loro, avrebbe segnato l'inizio di una storia durata tutta una vita. Io sono cresciuta in una famiglia in cui ho sempre sentito parlare del popolo tedesco con affetto e rispetto. Mio padre non negava l'orrore del nazismo, ma mi invitava a non generalizzare mai e a cercare sempre l'uomo dietro ad un'etichetta o ad un luogo comune. Fin da piccolissima, nella mia vita, la figura di Johannes è stata una presenza importante, affettuosa. Il mio secondo papà. Ero cosciente che io non sarei potuta esistere se dietro a quel filo spinato non si fosse creata quella strana e rara alchimia, quel senso di mutuo soccorso che si chiama amicizia tra l'ex seminarista tedesco e l'alpino italiano. In un paese lontano oltre 1000 chilometri da casa nostra e durante la seconda guerra mondiale, in un periodo molto difficile dove la parola d'ordine era odio, due ragazzi ventenni di due nazioni in guerra riescono ad intessere un rapporto di rispetto, uguaglianza e affetto che ancora oggi rende la mia famiglia orgogliosa di questa piccola storia nella grande storia. Johannes, il cui padre era il capo del campo di lavoro, rischiando la sua vita, salvò quella di mio padre, fornendogli in continuazione e di nascosto pane e patate. Le nascondeva la sera sotto il filo spinato che circondava il campo e correva dei grossi rischi per farlo. Certo, questo misero ben di Dio mio padre lo divideva ulteriormente con gli altri prigionieri, però questi atti giornalieri di sostentamento legarono le due persone creando l'inizio di un rapporto di profonda amicizia e stima. Molto spesso mio padre rimarcava che probabilmente non riusciva a capire il vero significato della parola fame. E lui, con tanti altri, sapeva bene di che cosa parlava. Mio padre fu mandato a lavorare fuori dal campo. In tempo di pace era orologiaio e questo lo rese utile ai tedeschi per controllare e riparare alcuni congegni di volo degli aerei di quel tempo. Questo gli permise di essere accolto dalla famiglia di Johannes, non più visto come un nemico, ma, come diceva la mamma di Johannes, un figlio arrivato dall'Italia. Johannes era veramente una persona speciale, perché Johannes è una persona ricca di umanità, ricca di piccole attenzioni, sapeva sempre colpire nel segno, non ha mai dimenticato un nostro compleanno di tutta la famiglia, non ha mai dimenticato i nostri gusti, ci accoglieva sempre veramente con un calore, un amore per noi che non ho mai più provato in nessun'altra persona. E poi venne la liberazione. La disperazione dei prigionieri si avventò sul villaggio. Incendi, violenze, tanta rabbia e dolore accumulato facevano compiere atti indicibili. Quella notte alcuni russi aggredirono la casa di Johannes, pronti a distruggere tutto. Poteva essere la fine, ma mio padre era lì. Con il suo tedesco stentato tentò di spiegare ai russi che quel ragazzino che stava trascinando fuori era lo stesso che li aveva in qualche modo aiutati con il suo pane nero e con le sue patate rosse. Johannes ed i suoi erano salvi. Sandro aveva in qualche modo ricambiato il bene che aveva ricevuto. Poi la guerra finì. Johannes venne in Italia molte volte. Mio padre tornò più volte a Buer, ma nessuno tra di loro parlò più della guerra. I miei ricordi più belli sono legati al pacco che arrivava a Natale dalla Germania, i dolci particolari e sconosciuti in Italia, ed il profumo di Natale e della Germania, e di Giovanni, Johannes. Oggi queste due persone non sono più con noi. L'amicizia costruita da Johannes e Sandro continua nei figli e nei nipoti, così come avrebbero voluto loro. In modo semplice, basato sul rispetto e sul reciproco aiuto. Così sarà ancora per tanto tempo. L'abbiamo promesso, lo dobbiamo a chi ha saputo intessere questa piccola storia bellissima nella grande storia fatta di tante brutture. È super sorridente Anna nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, anche oggi radio24.it, la nostra pagina. Voi siete qui, agli occhiali da sole, i capelli biondi, è estate perché maniche corte, e alle sue spalle un terreno collinare bellissimo, viti, vigne, potrebbe essere il Piemonte, le Langhe, la Toscana, ce lo sa dire lei. Pronto Anna, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Buongiorno. Sto molto bene, grazie. Sono molto contenta di essere in linea con te. Guarda, io sono contento di aver raccontato questa storia, che è una storia splendida. Devo dire che quando ci sono arrivate storie di guerra, accanto alle storie di brutture generiche, come le chiami tu, ce ne sono arrivate storie di non amicizie come queste, così profonde e radicate, però storie di umanità tra nemici, tra soldati, e sono sempre dei piccoli regali, no? Perché ti ricordano che anche nei momenti terribili l'essere umano riesce a trovare qualcosa che lo comune, anche se in realtà questa storia è una storia che va molto più in profondità, perché tuo babbo e Johannes sono stati proprio quasi fratelli, da come la racconti. Sì, fratelli, amici, e secondo me proprio la peculiarità di questa storia e la bellezza è che sono riusciti a portarla avanti negli anni con la stessa freschezza, con la stessa voglia di incontrarsi, di vedersi, con tante piccole attenzioni. Avrei un mondo di piccole cose da raccontarvi su questa loro amicizia. Anna, che cosa hanno fatto nella loro vita dopo la guerra, tuo papà e Johannes? Mio papà era orologiaio ed è tornato ad essere orologiaio, ha aperto un negozio e poi ha fatto anche un corso di orafo, quindi ha continuato questa sua attività. Sì. E Johannes invece era un ebanista, perché prima in quegli anni studiava da seminarista, voleva fare il sacerdote. Sì. Alla fine della guerra però poi ha cambiato completamente la sua prospettiva di vita e si è data appunto al lavoro di ebanista e ha lavorato fino alla pensione in una ditta in cui faceva delle cose splendide, proprio di una precisione incredibile. Scusami l'ignoranza, l'ebanista esattamente cosa fa? Qual è il suo ruolo? È quello che compone tanti tipi di legni insieme per fare dei mosaici, delle sculture. Quindi non lavora solo con l'ebano, ma con diversi tipi di legno? Sì, esatto. Okay. Ebanista perché forse l'ebano è uno degli elementi principali più pregiati e quindi è più pregiata anche questa professione. Certo. Anna, senti, invece cosa intendi quando dici che questa amicizia sta proseguendo? Voi siete in contatto con i figli di Johannes, vi vedete, vi frequentate? Assolutamente sì. La figlia di Johannes è madrina di mia figlia. Quindi ci vediamo almeno una volta l'anno, ci siamo visti adesso a settembre purtroppo per pochi giorni, ma mia figlia è stata una settimana a casa loro invece in agosto. Ho pronunciato bene il nome della cittadina, Buer? Buer. Che adesso non esiste più, è un praticamente un quartiere di Gelsenkirchen. Okay. E loro due anche su questo hanno patito tantissimo, loro hanno sempre continuato a chiamarla Buer. Ah, perché riconoscevano in quel luogo probabilmente un pezzo importante della loro vita, immagino. Sì, esattamente. E col tedesco come va, Anna? Quindi tu un po' lo parli? Un po' lo parlo, molto poco. Devo dire che sono stata molto favorita dal fatto che Johannes, avendo studiato latino in seminario, parlava italiano. Ah, okay. E la figlia di Johannes, quella con cui io ancora ho questa bellissima frequentazione, che si chiama Beate, e suo marito Norbert, hanno studiato entrambi l'italiano. Mio marito parla perfettamente l'inglese perché, ti dico, questa è proprio una storia di famiglia. Certo, mia figlia, tutti sono coinvolti. Mia figlia sta studiando il tedesco. Tra l'altro, Anna, mi divertiva il fatto che tu nella tua storia dici proprio all'inizio che tanti anni fa, negli anni 60, quando tu andavi a scuola, sentivi parlare con avversione, no? Con una certa avversione del popolo tedesco. Non è così tanto diverso questo periodo, no? Nel 2014 un pochettino una parte dell'Italia, degli italiani, a partire da alcuni politici, vedono la Germania un po' come il fumo negli occhi. Come la vivi questa cosa tu? Ad esempio, con gli amici italiani cerchi di farli ragionare, cerchi di dire: guardate che non esiste solo la Merkel, oppure non esiste solo... Gli amici sono gli amici di Norbert e Beate, tant'è che noi ci chiamiamo i Beati noi. Proprio quella foto di cui ti ho mandato, sì, e che abbiamo scelto in modo oculato, c'eravamo in realtà tutti, anche Norbert e Beate, e siamo nelle Langhe, okay, perché ogni tanto ci regaliamo un weekend tutti insieme, e quando vengono Norbert e Beate a Settimo sono gli amici dei miei amici, cioè, quindi con i miei amici non posso, cioè non ho bisogno di difendere fondamentalmente. Chiaro, certo. E con il resto ogni tanto tento, perché quello che mi hanno insegnato appunto mio papà e Johannes è proprio questa grande lezione di guardare sempre un pochino oltre, di non fermarsi alla prima visione o a quello che tutti dicono, che tutti credono essere vero. Anna, grazie mille. In questi ultimi giorni dell'anno mi piace tenere questa piccola lezione, questa piccola storia proprio come forma di insegnamento. Davvero, grazie e a presto. Guarda, Matteo, voglio ringraziarti tantissimo. Io voglio dire che se io sarò un puntino rosso sulla vostra carta, voi sarete un punto rosso nel mio cuore. E voglio dedicare questa storia a queste persone eccezionali che sono state Alessandro e Johannes. Grazie ancora. Ciao Anna, ciao. Grazie, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E alla fine, dalla storia di Anna, ho capito un po' di cose. La prima è che essere amici è un valore. La seconda è che essere amici dura per sempre. La terza è che essere amici aiuta a superare le difficoltà. La quarta è che essere amici non dipende dalla nazionalità. E la quinta è che essere amici può salvare la vita. 349-238-6666. Chiudiamo questa puntata come l'abbiamo iniziata, cioè chiedendo qual è il tedesco a cui siete affezionati in qualche modo, no? Visto che in questo periodo, come dicevo prima con Anna, c'è un po' questo modo di vedere la Germania, no? E spesso ne parlo con gli amici del Goethe Institute che di fatto fanno quello di mestiere, no? Insomma, non è vero che i tedeschi sono sempre in orario, dicono loro quando li incontriamo. Non è vero che i treni tedeschi sono sempre in orario come si pensa in Italia. Il tedesco a cui siete affezionati, 349-238-6666. Serena mi scrive: Andreas, un ragazzo che faceva l'istruttore di surf in un villaggio in Sardegna, veniva da Monaco molti anni fa, lo conobbi, mi insegnò a fare la strambata senza finire in acqua. Ringrazio come al solito anche questo 31 di dicembre tutti quelli che hanno reso possibile questo programma, questa puntata in particolare, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Miriam Lucchetti. Io vi auguro un sereno finale di 2014, ma soprattutto un ottimo inizio di 2015. Grazie soprattutto ad Anna, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Sono Ermanno, vivo a Milano. La storia di domani è la mia e parla dei concerti sulle terrazze del Duomo di Milano, di come da un piccolo dono, da un'idea, possano nascere grandi eventi. Questa è la mia storia e io sono qui.